in primo piano. Sfida finale per il quorum. Sfida finale per il quorum è l'apertura oggi del Corriere della Sera. Un saluto a tutti da Gigi Donnelli, benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa. Dunque, la sfida piuttosto che la corsa al quorum, piuttosto ancora che la battaglia per il quorum. Insomma, ovviamente oggi a poche ore, a 24 ore a questo punto dall'apertura dei seggi che aprono ovviamente domani e lunedì, il tema è il referendum, ma non solo, vedremo, ci sono effettivamente molti spunti oggi dalle prime pagine che riguardano i grandi temi della salute, ma anche l'onda lunga delle decisioni brasiliane sulla liberazione a questo punto di Cesare Battisti. Vediamo allora, sfida finale per il quorum, ve l'ho citato, i Bersani dice ci siamo quasi, il PDL parla di quesiti strumentali, questo è il Corriere che parla, che ricorda appunto seggi aperti domani lunedì, manifestazioni per il sì, il centrodestra dice c'è il diritto di astenersi e così come vi ho anticipato è referendum, corsa al quorum per Repubblica, invece di fatto identico la citazione di Bersani e Berlusconi che dice comunque non ci sarà una spallata. Battaglia per il quorum è invece il titolo scelto dalla Stampa di Torino a centro pagina, peraltro un'immagine su tema completamente diverso che ci ricorda come in Argentina sia nata, e la foto la racconta, la prima mucca che produrrà latte materno. Ecco, oggi i temi scientifici e quelli della salute si incrociano spesso con il tema principale, appunto il tema della politica. Il Sole 24 Ore, il debito greco scontro Berlino BCE, quindi prime difficoltà sui mercati per le banche, ma a centro pagina l'immagine racconta un'altra importante vicenda di queste ore. Riad si riavvicina all'Occidente e lo strappo nell'OPEC, i prezzi del petrolio in calo. L'Arabia Saudita ha infatti deciso che produrrà 10 milioni di barili al giorno. Ha deciso di fatto un importante aumento, un passaggio di offerta dagli 8,8 attuali, 8,8 milioni di barili, al 10 milioni di barili al giorno e anticipa, poi vi racconterò, una vera e propria sfida all'interno dell'organizzazione dei grandi produttori di petrolio. Per il Messaggero, che naturalmente titola sui referendum, però quello principale, il titolo principale riguarda l'annuncio di Castelli, che riguarda il raccordo a pagamento. Il Messaggero dunque, quotidiano romano, è Roma, lite sui pedaggi, il governo va avanti, ha affermato il vice ministro leghista Roberto Castelli, si riaffaccia così l'incubo del balzello per 160.000 romani che sarebbero costretti a pagare ogni giorno per servirsi del grande raccordo anulare. Allora, La Padania. La Padania invece è probabilmente l'unico quotidiano oggi in edicola in cui il tema del referendum non c'è, sparisce. Il governo fa il tagliando, il titolo della Padania e l'intervista che viene richiamata in prima pagina è quella del vicepresidente della commissione bilancio di Palazzo Madama Massimo Garavaglia, quindi un lungo dettagliato articolo su il tagliando del governo, luce e ombre dell'azione dell'esecutivo, i temi che riguarda appunto il rilancio dello sviluppo, il sostegno alle famiglie, la sicurezza, ma la scelta quindi del quotidiano, della testata della Lega è di lasciare la questione referendaria fuori dalla prima pagina. Invece tutt'altro approccio è quello di Libero, che dice esplicitamente state a casa, sotto sottotitolo potrei dire stanno a casa anche loro, nel senso il riferimento è a quello della scelta del PD nel 2003 e che, come dice Libero, ora strilla, ma nel 2003 invitava all'astensione. Quindi state a casa è la linea di Libero esplicitata questa mattina nel grande titolo, opposto viceversa dall'Unità, e non ci sorprende, in alto il quorum, ultime ore delle urne tra feste, mobilitazione e appelli, e il gioco di parole sul quorum dell'Unità, in alto il quorum. Sì, ho paura, e invece l'apertura, e si riferisce in questo caso, ecco, più che più che il tema referendario è proprio quello del nucleare. Sì, ho paura, l'immagine scelta dal riformista diretta da Emanuele Macaluso è quella di una delle fasi drammatiche del terremoto e successivo tsunami in Giappone. Quindi lunedì alle urne, domenica e lunedì alle urne per far scattare il quorum del referendum, ma soprattutto viene evocata l'immagine appunto del disastro di Fukushima. Eccoci qua, sul secolo XIX invece la foto, l'immagine centrale, dunque i titoli più importanti si riferiscono alla giornata che il presidente della Repubblica Napolitano ha trascorso a Porto Venere. Porto Venere significa Fincantieri, significa ovviamente lavori del porto e del mare. La Spezia, Napolitano, la Spezia e Porto Venere sono una accanto all'altro, Napolitano invita a pranzo gli operai di Fincantieri. E fuori programma, come spiega appunto il quotidiano genovese, nella visita del presidente Napolitano ieri alla Spezia, a Porto Venere, davanti al ristorante dove era stato preparato il pranzo con le autorità, il presidente della Repubblica ha incontrato un gruppo di operai di Fincantieri, li ha invitati a mangiare con lui. A tavola c'era anche il sottosegretario Letta, destinatario di un consiglio presidenziale. Cercare il consenso costa, state attenti ai conti. Bene, direi che per questa prima parte siamo arrivati, tra pochissimo torniamo per gli approfondimenti. In primo piano. Ancora buongiorno, ecco, se c'è naturalmente una partita politica e una guerra psicologica, come scrive questa mattina tra l'altro la stampa sull'effetto referendario, c'è anche un impatto economico, e le partite economiche sono proprio quelle che racconta oggi, richiamandole dalla prima pagina e poi approfondendo nel primo piano, pagina 4 e 5, il Sole 24 Ore. L'impatto dei referendum sull'acqua, acquisiti da 64 miliardi di investimenti. Dunque, implicazioni, investimenti da 2,2 miliardi all'anno, ma il 44% di tutto questo investimento è fermo, più difficoltà per gestioni in-house, ricorda appunto nel titolo l'articolo, uno degli articoli di approfondimento, in questo caso quello curato da Giorgio Santilli. Ecco, tra le parole chiave che, come sapete, il Sole riporta e sottolinea oggi, sicuramente un ruolo l'ha il termine ciclo integrato, che di fatto è il appunto il ciclo integrato per le gestioni idriche, che di fatto è la modalità di gestione che prevede l'integrazione verticale tra tre attività che in passato erano rigorosamente separate: la distribuzione dell'acqua attraverso il sistema, la fognatura, la depurazione. Ecco, la legge Galli, che spiega appunto nella parola chiave oggi il Sole 24 Ore, ha previsto anche una forma di integrazione orizzontale, superando la competenza del servizio su base comunale, obbligando gli enti locali a integrarsi in ambiti territoriali ottimali, generalmente su base provinciale. Poi c'è anche un lato che invece non riguarda l'acqua, ma è il nucleare, e Federico Rendi dunque fa il punto su quelli che sono i cosiddetti effetti boomerang della gelata europea sull'energia nucleare. Vi cito solamente un passaggio interessante che si riferisce appunto la posizione espressa dal sottosegretario allo sviluppo economico Stefano Saglia, che dice: se è vero che l'energia di tutta Europa si sta evolvendo verso sistema integrato interconnesso, quindi l'integrazione è d'obbligo non solo in politica e nella cultura, ma nell'economia e nei sistemi energetici, la decisione della Germania, prosegue appunto l'articolo, la decisione di spegnere progressivamente ma fin d'ora le sue centrali nucleari entro un decennio, creerà problemi per tutta l'Europa, perché le elettriche continentali, spiega Saglia, non sono pronte a reggerne l'impatto di questo cambiamento. Il sottosegretario si riferisce al più che prevedibile rischio ciclico dei tedeschi all'import di energia dagli altri paesi, in attesa di assestare la struttura di produzione elettrica del paese. Insomma, mentre riducono il fronte nucleare, i tedeschi potrebbero doversi rivolgere vendere al mercato per ottenere l'energia mancante e quando si assesterà, fanno rilevare gli esperti, i guai per tutti potrebbero essere maggiori, perché la Germania spingerà sulle già robuste energie verdi, che però in termini percentuali non potranno certo correre per coprire ciò che mancherà dal nucleare. Insomma, i fronti economici di questa vicenda fanno parte delle pagine di approfondimento di questa mattina sul Sole 24 Ore, che peraltro ovviamente non manca l'appuntamento, in questo caso di Stefano Folli, con il punto politico di questa battaglia. Il titolo è esplicito: la battaglia è tutta sul quorum e ha un forte rilievo politico. Scrive infatti Folli che è inevitabile, l'esito dei quattro referendum avrà delle conseguenze sul quadro politico generale. Del resto le firme sono state raccolte, le firme per il referendum sono state raccolte con questo proposito e la campagna elettorale è stata condotta con il chiaro intento di assestare un altro colpo a Berlusconi dopo la conquista dei municipi di Milano e di Napoli. Insomma, lo scontro in atto è molto duro, prosegue Folli, e non è fra i sostenitori del sì e i fautori del no, come accade ormai da molti anni. La vera battaglia è fra chi punta sul quorum e chi privilegia l'astensione. A questo proposito, la stagione del non voto dura dal 95, ci ricorda una ottima grafica di pagina 4 oggi sul Sole. Insomma, le percentuali, l'affluenza alle consultazioni del passato dal 74 al 2009 mostrano di fatto due grandi fasi. La prima fase 74-90, da divorzio al primo nucleare, che vede sistematicamente il superamento, in casi addirittura molto ampio, come appunto nel referendum divorzio del 74, addirittura l'88% la partecipazione, quindi annate di quorum passato regolarmente, e poi dal 97, quindi obiezione di coscienza e altri, in poi in una lunga serie di mancati quorum raggiunti dalla legge elettorale, che peraltro l'ha sfiorato al 49,6%, altre leggi elettorali, licenziamenti, procreazione assistita, addirittura si scende al 25% al referendum abrogativo per la legge elettorale del 2009. Ecco, a questo, sempre su questo tema, diciamo anche per concludere questo tema, tra gli elementi che vengono riportati oggi a livello di commenti sulla vicenda appunto politica, vi segnalo La Stampa, un articolo dedicato al pentimento del Premier, che dice che errore dire che non voterò, ho sbagliato, mi è sfuggito, ma non riusciranno a darmi la spallata. Berlusconi si è pentito di aver detto che non andrà a votare per il referendum, gli era stato consigliato di non pronunciarsi, di non attirare l'attenzione, scrive Amedeo La Mattina appunto sulla Stampa. Dopo la batosta delle amministrative, gli strateghi del PDL hanno capito che le parole del Cavaliere mobilitano, e come se mobilitano di questi tempi, nel senso che tutti quelli che sentono l'odore del sangue, quello del Premier, o che più semplicemente vogliono voltare pagina politica, si precipitano a votare. Morditi la lingua, gli avevano detto in coro stereofonico Letta, Alfano, Verdini, Cicchitto. Invece il Premier spontaneo non ce l'ha fatta, ha inanellato involontariamente una serie di spot pro referendum. Qualche giorno fa aveva detto che queste consultazioni sono inutili e dannose, e qualcuno con la memoria robusta è venuto in mente quando Craxi nel 91 disse, il famoso andate al mare, disse che quello sulla preferenza unica voluto da Mario Segni è il più inutile tra i referendum. Memorabile il consiglio del leader socialista ai cittadini di andare al mare, venne giù un diluvio politico, 27 milioni di elettori si recarono a votare, pari al 62% dei voti. Ecco, adesso i promotori del referendum del 12-13 giugno, domani lunedì, non sperano tanto, anche se sono convinti di essere vicinissimi alla fatidica soglia del 50% più un voto. Stesso tema, e direi che concludiamo invece sul Foglio. Sul Foglio, in cui appunto sul Foglio di Giuliano Ferrara, l'agenda di governo, qui in questo caso è carino anche il titolo, batti quorum a destra, quindi abbiamo associato tra battaglie soffio al quorum, vedo qua sotto dalla pagina invece del Manifesto. Insomma, c'è stato da da sbizzarrirsi. Dicevo, Batticuorum a destra è invece il titolino del Foglio, che parla di rassegnazione sull'esito del voto, lavorio sulla legge preelettorale sul fisco, aspettando Pontida, quindi l'incontro annuale a forte carattere simbolico della Lega, e la verifica. A questo proposito vale la pena ricordarvi quanto già detto prima, che oggi la Padania sceglie di come dire, saltare dalla prima pagina a pie pari il tema del referendum. Ma dunque, nel centrodestra, scrive il quotidiano di Ferrara, sono abbastanza sicuri di una cosa: i quattro referendum per i quali si vota domani lunedì raggiungeranno il quorum. La rassegnazione si accompagna a una disordinata agenda per il dopo consultazione, che riflette la coesistenza di due linee più o meno esplicite all'interno della stessa maggioranza e degli stessi partiti che la compongono. Alla linea continuista che Silvio Berlusconi agita pubblicamente, ma di cui forse dubita nei suoi conciliabili privati con lo scettico Umberto Bossi, si affiancano segnali che offrono l'immagine di un centrodestra che si prepara anche a elezioni anticipate da fissarsi per il 2012. L'opzione l'hanno messa in campo esplicitamente Bossi e Roberto Maroni, ma la decisione del PDL di presentare la settimana prossima una riforma della legge elettorale sembra confermare che l'ipotesi non sia ritenuta così evanescente, nemmeno negli ambienti berlusconiani. È di questo che mercoledì hanno parlato a casa del Premier il vice capogruppo al Senato Gaetano Quagliariello e il capogruppo alla Camera Fabrizio Cicchitto. Ecco, questo per alcuni importanti commenti sulla politica e sui referendum. Adesso tra un secondo sentiamo insieme come vanno invece le cose sulle strade. Ieri è stata una giornata molto complicata, soprattutto per chi si è trovato a viaggiare lungo l'A1. Vediamo un po' tra un momento come vanno le cose, ma vi anticipo, ripartiamo invece da un titolo di prima pagina del Sole 24 Ore, che è lo strappo dell'OPEC. Allora, cosa succede sul fronte del petrolio? Un approfondimento a cui arriviamo tra qualche momento. In primo piano. La sfida in questione è quella di un paese che ha deciso di fare salire in luglio oltre 10 milioni di barili la produzione petrolifera. Questa è la sfida di Riad avanti da sole, il titolo dell'approfondimento a cura di Sissi Bellomo, di Davide Tabarelli, all'interno della pagina 2 del Sole 24 Ore. Ecco perché è importante questa vicenda, perché è ovviamente un tema economico, ma è anche profondamente un tema politico. È vissuta e segnalata come una risposta a Teheran, da un lato, che al vertice di Vienna ha portato a vincere la linea così a tendista dell'Iran sulla produzione, e segna anche un chiaro passo nel percorso di riavvicinamento, in realtà insomma di ulteriore riavvicinamento tra Washington e Riyadh, che negli ultimi anni ha ovviamente vissuto una serie di scossoni violentissimi a seguito appunto dell'11 settembre. Ecco, ma come scrive Davide Tabarelli, dice: a metà 2011 siamo da oltre tre mesi vicini a $120 del prezzo ovviamente del barile, ma la decisione di Riyadh di riportare la sua produzione a 10 milioni di barili giorno da luglio contro gli attuali 8.8 dovrebbe finalmente imprimere un trend ribassista al mercato. Ecco, proprio la primavera araba, oltre alla cattura di Bin Laden dal 1 maggio, stanno riavvicinando l'Arabia Saudita agli Stati Uniti dopo il grande gelo causato dall'attentato alle torri dell'11 settembre. Washington ha bisogno di prezzi del petrolio più bassi per sperare di dar forza alla ripresa economica, ed ecco dunque il senso anche politico della decisione, visto che le manovre monetarie, oltre ad essere inefficaci, lasciano le banche troppa liquidità a costi bassi, che viene investita proprio sulle borse a termine delle materie prime, tra cui una delle preferite è quella del petrolio. L'abbondanza di liquidità è la principale ragione degli alti prezzi del petrolio, che sarebbero stati comunque in crescita, ma a distanze meno siderali rispetto ai costi specifiche in Iraq o in Libia sono inferiori ai 5 dollari al barile. L'Italia, prosegue Tabarelli, ha urgente bisogno che i prezzi del petrolio scendano, in quanto incidono su tutti i prezzi dell'energia. E poi naturalmente lo spiega nel dettaglio. Quindi vi segnalo questo e tra gli approfondimenti della giornata, questo tema appunto importante per quelle che sono le implicazioni economiche e politiche. Altro tema, voltiamo letteralmente pagina, torniamo al Corriere della Sera, la vacanza dell'assassino. Beh, questo è esplicito, direi, il titolo del fondo firmato da Claudio Magris. Claudio Magris, studioso, uomo raffinato, di cultura, naturalmente germanista, che sceglie oggi una linea molto dura e vi leggo alcuni passaggi. Si rivolge proprio alla Francia, da intellettuale a intellettuale, e dice: la Francia è forse il paese migliore del mondo, quello che combina nella misura più felice o meno infelice ordine e libertà, i due poli della vita civile. Ma anche la Francia è culla di qualche supponente, spesso ignorante, con venticola intellettualoide, che trancia giudizi ignorando i fatti. Ecco, questo è l'attacco che Magris ferra alla cultura francese, che ritiene appunto responsabile di fatto della catena che poi ha portato alla liberazione di Cesare Battisti in Brasile. Il killer che ha assassinato 4 persone e reso paralizzato per sempre una quinta. Queste erano le primissime parole dell'articolo. Dunque la Francia. In questo caso, per pura ignoranza, prosegue Claudio Magris, alcuni autentici o sedicenti intellettuali hanno scambiato Battisti per un martire della resistenza, come se noi dichiarassimo che un fascistoide antisemita quale Papon è un eroe della resistenza. Insomma, va dritto un po' al cuore, se vogliamo anche del sentimento. Maurice Papon, funzionario di Vichy, uomo politico, prefetto, una figura importante che diventa in qualche modo negli anni 70 un elemento centrale della riflessione francese sugli anni di Vichy. Ecco, Magri dice: come se noi lo trattassimo da un eroe della resistenza, cosa che ovviamente gli stessi, diciamo, intellettuali francesi non gradirebbero. E prosegue: le Brigate Rosse hanno colpito l'Italia più aperta e civile, hanno assassinato non già i corrotti, mafiosi o golpisti, ma i rappresentanti dell'Italia migliore, un'Italia più libera e democratica, che avrebbe potuto essere diversa da quella di oggi. Uomini come l'avvocato Croce, l'operaio comunista Guido Rosso, giornalisti come Casalegno e Walter Tobagi, il professor Bachelet e molti altri, tra i quali molti magistrati. La profondità politico-filosofica delle Brigate Rosse può essere riassunta, conclude Magris, nella frase di quel brigatista pentito, il quale dichiarò che, avendo avuto nel frattempo una figlia, aveva capito che non è lecito uccidere un papà, come se fosse invece meno grave uccidere chi è soltanto uno zio. Ecco, questo è il fondo di Magris, che in qualche modo dà voce appunto al disappunto, alla rabbia di una decisione che in qualche modo forse è l'unica che raccoglie un'ampia appunto opposizione da parte di commentatori di molti giornali. Volevo quantomeno, siamo ormai già alle 7:52 minuti, trovare un momento per leggervi un passaggio che riguarda un altro tema che è un tema di sanità, ma è un tema anche di salute, insomma il batterio, i germogli di soia, che entrano in questa settimana al centro dell'attualità e delle preoccupazioni sanitarie. Anche qui, in globalizzazione, interconnessioni, è partito dalla Germania, poi le accuse sono state rivolte alla Spagna, poi un dietrofronte, insomma, la vicenda del batterio. I germogli di soia e dei legumi sarebbero dunque responsabili dell'epidemia di Escherichia coli, che ha provocato la morte di decine di persone in Europa, l'ha annunciato il presidente dell'Istituto Robert Koch. Quindi io invece vi segnalo la un passaggio della riflessione invece di Giuseppe Remuzzi, professore al Mario Negri, a Bergamo. Dice: la grave epidemia delle Escherichia coli non diventi un disastro economico. Il batterio che ha infettato più di 2.500 persone in diversi paesi d'Europa e ne ha uccise 18 solo in Germania fa parte di una famiglia che conosciamo dagli anni 30. Danneggiano l'intestino, nei casi più gravi il rene, colpiscono soprattutto i bambini che non hanno in anticorpi. Ma in Germania è tutto diverso, si ammalano giovani, adulti e donne. Perché proprio le donne? Non lo sappiamo. I microbiologi hanno cercato la vera tossina dappertutto, l'hanno trovata nei cetrioli della Spagna e subito le autorità hanno pensato che il male venisse da lì. Il batterio però nei cetrioli non c'era. Insomma, e qui sintetizzo, sono problemi complessi che non ci consentono di rispondere nemmeno a domande anche molto semplici. Ci vuole molta pazienza, ma scrive Giuseppe Remuzzi, la scienza funziona così. E fino a quando non saremo davvero sicuri, meglio non azzardare spiegazioni. Bene, con questo ho chiuso. L'appuntamento è naturalmente subito con GR24. Noi ci sentiamo a partire poco dopo le 9 per la settimana raccontata alla radio con l'appuntamento di Punto a Capo. A più tardi.